Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, finalmente siamo insieme. 800 24 0024, il nostro centralino è già attivo, i messaggi 349 238 6666, in regia la parte tecnica Peter Bescapè, in redazione Laura Vanossi, i titoli del nostro sommario. Ansia, un disturbo al femminile. Cerca di non scottarti, ma se ti bruci, usa i rimedi giusti. Cuore di donna, così grande, ma anche così fragile. Una nuova puntata al femminile. Martedì scorso abbiamo parlato a lungo di donne, carriera, stress e famiglia. Oggi invece entreremo in modo più specifico nell'universo delle emozioni al femminile. Parliamo infatti di ansia. Può fare da sottofondo alle nostre giornate oppure attivarsi di fronte a circostanze specifiche. C'è chi la subisce, c'è chi invece cerca di attrezzarsi per tenerla sotto controllo. Però io oggi vorrei approfittare di questa occasione per parlare con voi anche di depressione in crescita, soprattutto tra le donne. I dati dicono che in Europa ne soffre una donna su sei. E io credo sia importante, molto importante, parlarne per dire a chi soffre di non sentirsi in colpa né di sentirsi sola, ma soprattutto che si può guarire. Queste saranno un po' le parole chiave della nostra trasmissione: conoscere per superare. E la condivisione di storie ed esperienze credo sia un buon punto di partenza su cui iniziare a confrontarsi e a ragionare. E noi oggi ci faremo aiutare dai nostri esperti, ma nel corso della nostra trasmissione ci faremo dare anche una mano dalle protagoniste di un film che uscirà domani nelle sale cinematografiche, si intitola Due partite, dalla pièce teatrale di Cristina Comencini con la regia di Enzo Monteleone. È un film di cui ho scelto di parlarmene proprio perché è un film tutto al femminile, che di noi donne racconta le speranze, le fatiche, ma anche la forza e la fragilità. Allora oggi faremo tutte insieme questo percorso. Vi presento subito i nostri esperti che sono in linea con noi. Abbiamo il professor Claudio Mencacci, grande amico di Essere Benessere, tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Grazie, sono tornato con piacere. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Psichiatra e direttore del Dipartimento di Neuroscienze all'Ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. In linea con noi abbiamo anche la professoressa Umberta Telfner. Buongiorno professoressa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Professore alla scuola di specializzazione in psicologia della salute all'Università La Sapienza di Roma e autrice di un libro molto bello, interessante, si intitola Le forme dell'addio. Allora professoressa, iniziamo proprio da lei. Per chi vive sempre in allerta, in uno stato di tensione continua, l'ansia è veramente una cattiva compagnia, un problema. Per voi psicologi invece l'ansia, per quanto sia invalidante, più che un problema è un sintomo. Sì, è un'informazione. Sì. L'ansia potremmo chiamarla la madre di tutte le emozioni umane e forse potremmo pensare che è derivata dalla paura. Il sistema di allarme aiuta gli animali attraverso attacco e fuga a sopravvivere, a salvarsi la vita dal pericolo. L'ansia è tipicamente umana e potremmo dire che è uno stato di allarme che ha un contenuto cognitivo, cioè delle idee che lo sostengono, sì, una preoccupazione costante e anche una reazione somatica, quindi che va dalla più tenue, che sono le famose farfalle nello stomaco, mm-hmm, alla paura, il panico, lo spaesamento, a sintomi fisici veri e propri come l'abbassamento della vista, fischi all'orecchio, nausea, voglia di vomitare, cose di questo genere. Manca a volte il fiato, come si dice, manca il respiro. Il fiato. Ognuno poi sceglie il suo modo di mostrare l'ansia. È come un motore di una macchina che va su di giri senza mettersi a camminare e quindi c'è questo stato di costante arousal senza che appunto si vada da nessuna parte. Professor Mencacci, le preoccupazioni della persona, mi veniva a dire donna perché noi oggi parliamo soprattutto, ci rivolgiamo alle donne, possono vertere su diversi fronti. Ad esempio, a preoccuparci può essere la salute, i figli, il lavoro, i soldi, gli affetti, ma molto spesso tutte queste direi preoccupazioni hanno un denominatore comune. Proviamo allora un po' a tratteggiare, se questo è possibile, le caratteristiche, il profilo della donna che vive, convive con questa ansia, che per certi versi è buona, ma a volte supera un po' i livelli di guardia? Ecco, il punto è proprio questo, è quando l'ansia diventa troppa. E bisogna partire da questo dato. Le donne soffrono molto di più di ansia rispetto agli uomini, così come soffrono il doppio di depressione rispetto agli uomini. E questa è una lunga storia sulla quale ci sono stati tanti approfondimenti, e la questione oggi è che se l'ansia può salvare la vita e può metterci nella condizione di trovare più risposte ai problemi che ci vengono posti, quando questa cresce diventa un modo per complicare, non risolvere, ritardare le soluzioni. Quindi quando di fronte ad una persona si preoccupa eccessivamente della propria salute, eccessivamente dei propri figli, eccessivamente anche delle proprie condizioni relazionali, bene, evidentemente ci troviamo in una condizione di un tale stato di allerta che invece di trovare soluzioni positive più frequentemente troverà soluzioni negative e purtroppo anche di correre il rischio di sviluppare delle vere e proprie patologie che poi prendono i nomi più conosciuti di disturbo d'ansia generalizzato piuttosto che di disturbo panico. E qui entriamo in un novero di sintomi che quando siamo andati a numerarli abbiamo visto che superano i 130, quindi tantissime manifestazioni sia di carattere emotivo, moltissime corporee, altrettante di carattere comportamentale, che fanno sì che a volte si hanno delle grosse difficoltà a poterle riconoscere, e invece poterle riconoscere vuol dire poterle affrontare e poi anche curare al meglio. È quello che cercheremo di fare oggi con il vostro aiuto, anche con le testimonianze delle nostre ascoltatrici. Ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Però se è vero che due persone ansiose non si racconteranno mai in modo identico, perché l'ansia abbiamo visto che si presenta in un numero molto diverso, vasto, variegato di forme, io però vorrei chiedere ai miei esperti di rivolgersi ad una donna che in questo momento ha un'ansia, magari per un aspetto della sua vita, oppure si sente proprio invasa, per darle magari là a provare a pensare alla sua situazione, mettersi in contatto con noi e provare magari ad affrontarla. Professoressa Telfner. Ok, io credo che ci sono due caratteristiche specifiche che sono trasversali ai 103 disturbi d'ansia di cui parlavamo prima, e sono completamente d'accordo che proprio quest'ansia si manifesta in modalità molto molto differenti. Uno è l'idea che il mondo sia minaccioso, sì. E l'altro è che se stessi un sé inadeguato, cioè che non si è capaci di affrontare una determinata situazione. Il terzo aspetto potrebbe essere questo, che ci si preoccupa per eventi del futuro che in qualche modo non sono modificabili e rispetto ai quali l'ansia in qualche modo non aiuta, non migliora, certo. Esatto, non aiuta, ma anzi c'è un'attivazione somatica che non serve a niente e a volte invece addirittura peggiora la situazione. Quindi professoressa, la domanda che facciamo è: se avete la sensazione che il mondo che vi circonda rappresenti una minaccia, se vi sentite in diverse situazioni o in alcune particolari inadeguate e se il futuro vi fa paura, 800 24 00 24. Professor Mencacci, lei chi chiama la pelle invece? Io chiamerei tutti quelli che sono convinti che è indispensabile controllare tutto, cioè quindi autocontrollarsi e controllare gli altri, e quindi l'idea del controllo, analogamente a quello della percezione che l'amore e l'affetto si manifesti nella preoccupazione per i nostri cari e che quindi buona parte del tempo sia spesa a pensare che non accada nulla alle persone che ci vogliono bene. Bene, queste sono due modalità che, se da un lato hanno degli aspetti totalmente naturali e fisiologici, quando aumentano diventano fondamentalmente limitanti le relazioni, ma soprattutto sono totalmente irreali, perché non possiamo controllare il nostro ambiente, ma soprattutto l'altro dato è che frequentemente sono invece segnali di una scarsa fiducia in se stessi, quindi di una scarsa stima in sé e anche di una scarsa attenzione a se stessi, che quindi invece, se ben data, potrebbe essere di aiuto allo stare con le persone che ci sono vicine. Allora, questi sono gli input che arrivano dai nostri esperti. Andrea ci scrive: buongiorno, perché si parla di donne se si parla di ansia? Ho amici anche giovani che ne soffrono e sono tutti maschi. Anch'io ne ho sofferto molto. Naturalmente noi oggi vogliamo esplorare il mondo femminile che si confronta con l'ansia, ma naturalmente, professor Mencacci, professoressa Telfner, parleremo anche di... Anche non daremo, di uomini. Naturalmente. Un ascoltatore mi scrive subito, mi ha scritto appena ha sentito il titolo: e chi sopporta una donna ansiosa? Non dite nulla a questi uomini, magari non agli uomini ma ai familiari, per capire come possono aiutare una persona che ha superato il livello di guardia della sua ansia, come aiutarla, come non farla sentire in colpa, come non farla sentire una malata immaginaria. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, chiamateci, raccontate le nostre storie. Noi proveremo un po' a trovare insieme la direzione in cui muoverci per uscire da questa situazione che sicuramente ci crea malessere. E intanto sentiamo il primo contributo che abbiamo realizzato con Carolina Crescentini, una delle protagoniste del film Due Partite, che ci accompagnerà lungo tutta la trasmissione raccontandoci e regalandoci dei consigli, dei suggerimenti, raccontando un po' la storia. Ciao a tutti, io sono Carolina e interpreto Sara, un personaggio che più che ansioso definirei tra il nevrotico e l'isterico convinto, ma in realtà è un po' anche una difficoltà nel gestire la propria vita e il proprio lavoro. Per quanto riguarda l'ansia, ecco, io sono un soggetto, un addicted all'ansia, ma la gestisco con un po' di ironia. Io sono dell'avviso che è proprio l'ironia, l'autoironia, il segreto per vivere bene. Se ridi su tutte le situazioni è più semplice, senza che ti fai fermare dalla paura o dall'ansia o dal giudizio. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina, parliamo dei piccoli infortuni che ci possono capitare dentro le mura domestiche. Oggi diamo spazio alle scottature ed è tornato con noi il dottor Lorenzo Moia, medico, ricercatore e vice direttore del Centro Cochrane Italiano. Buongiorno dottore e bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, io vorrei parlare con lei delle scottature, perché ne ho una fresca. L'altro ieri avevo ospiti a cena, fai di corsa in cucina perché ti aspettano di là, eccetera, avevo una bella teglia di lasagne, ciaf, l'ho afferrata, mi sono scottata, un male terribile. Tutti dicevano: mettila sotto il ghiaccio, l'acqua, metti il ghiaccio, metti la patata, metti la crema, eccetera. Io la crema non l'ho trovata e insomma adesso è qua. Una piccola scottatura, insomma. Sì, però devo dire che anche se piccole, ad esempio io non so lei, non so se stira, ma anche col ferro da stiro io riesco a bruciarmi e sono davvero dolorose. Che cosa si deve fare, dottore? Ci sono due soluzioni. Una è un vecchio rimedio della nonna, mentre invece la seconda possibilità è quella che ha a che fare con la farmacia più vicina a casa. Sì. Nel primo caso avresti potuto aprire la tua dispensa e tra i vari barattoli cercare un barattolo di miele. Quello ce l'avevo. E non l'ho usato. Ma come mai il miele, dottore? Il miele, c'è una revisione Cochrane che ha messo insieme i risultati di 9 studi clinici e hanno studiato le proprietà che ha il miele nel riparare le ustioni, quelle da lieve a moderate, quelle che accadono in casa. Sì. E ha confrontato il miele con alcune delle creme, delle garze impregnate che vengono generalmente usate. E il miele in queste ustioni si è dimostrato un prodotto efficace che crea cioè le condizioni perché la pelle

che le ha fatto vivere probabilmente un'infanzia di pochi affetti, partendo dal presupposto che lei non è stata desiderata e poi i genitori si sono separati, insomma in casa sua si respirava tensione, quindi crescendo su questa tensione il risultato è una donna dalla corazza molto dura che però crolla alla prima occasione, capito? Io ho imparato a tirarmi fuori dalle cose che mi fanno venire ansia, cioè c'è stato un periodo della mia vita in cui subivo questo tipo di forzature e invece poi quando ho capito che non vale la pena, perché non vale la pena ammalarsi per affrontare una situazione che non ci appartiene, allora tanto vale rinunciare, no? E quindi mi tengo alla larga dalle situazioni che mi preoccupano troppo in qualche modo, non mi ci infilo per niente. Poi il mio lavoro mi porta spesso a situazioni al limite, io non sono una persona mondana, faccio fatica ad avere relazioni sociali, capito, cose di questo tipo, quindi ogni tanto un po' devo tapparmi il naso, no? Però se c'è una cosa che veramente non sono pronta a fare, non ho desiderio di fare, non lo faccio, preferisco fare una sana prevenzione che curarmi. Eccoci, allora, professor Mencacci, professoressa Telfner, abbiamo veramente pochi secondi prima di andare ai mercati. Io volevo commentare con la professoressa Telfner un sì o un no, poi andiamo nel dettaglio. E la prima testimonianza ci suggeriva un po' di autoironia nella vita. Fantastico, questo, assolutamente sì. Questo va bene, quindi questo era il consiglio di Carolina Crescentini. Professor Mencacci, andiamo a Claudia Pandolfi. Dice, cerco di tirare un passo indietro, può essere una strategia? È un modo di conoscersi meglio? No, passo indietro e evitamento non sono una soluzione. È la soluzione che lei propone, fare quello che, di cui abbiamo bisogno, che desideriamo e quindi di non farci condizionare dalle aspettative e dai bisogni altrui, è una buona soluzione, perché ci insegna almeno a saper gestire la nostra di ansia per le scelte che facciamo e non per quelle che subiamo. Che subiamo, che ci vengono imposte. Siamo tornati insieme in questa puntata che vogliamo dedicare all'ansia, all'ansia al femminile, ma naturalmente l'824 0024 a disposizione anche dei nostri ascoltatori che vogliono intervenire a chiedere un consiglio ai nostri esperti che sono in linea, il professor Mencacci, la professoressa Telfner. Vogliamo cercare oggi, condividendo le nostre storie, approfittando dei nostri esperti, a individuare una direzione per uscire da questa condizione di malessere. Andiamo subito nella provincia di Bari, ci aspetta Anna. Buongiorno Anna. Buongiorno dottoressa, io ho lo stomaco bloccato, non ho sintomi di fame e ho sempre singhiozzi e irritazioni. Sono stanca di questi sintomi. Prendo domperidone, farmaco, ma mi dicono che è uno stato ansioso. Non c'è un rimedio che possa cambiare la mia vita. Io sono arrivata a 61 anni, però non riesco ancora ad uscirne. Allora, grazie Anna per la sua telefonata. Professor Mencacci, ci sono l'ansia ha dei sintomi, la professoressa Telfner ce l'ha descritti, fisici. Come possiamo capire che sono dovuti all'ansia o invece sono un problema che deriva invece da un altro disturbo, da una patologia? Beh, questo, come ci dice la signora, in primo luogo di fronte a sintomi somatici come questi o frequentemente di natura gastrica e gastroenterica, in primo luogo vanno fatti degli accertamenti medici, sì. Ma una volta che si sono risultati negativi, come ad esempio sembra dire questa signora, esistono delle possibilità di cura, vuoi di carattere medico-farmacologico, ma vuoi anche di carattere psicologico con tecniche di rilassamento che sicuramente possono essergli di grande aiuto. Ricordo che questo tipo di sintomi legati allo stomaco e all'intestino sono assolutamente tra i più frequenti e, aggiungo, più frequenti tra le donne. Professoressa Telfner, vuole aggiungere un dettaglio? Sì, vorrei chiedere alla signora... La signora ci sta sentendo alla radio, penso che abbia messo giù, ma la sua domanda può essere utile sicuramente anche ad altre ascoltatrici. Mi domanderei che se c'è qualche cosa che la preoccupa, sì, nel suo futuro, oppure se è avvenuto qualche cosa che nel passato recente che la preoccupa o che l'ha addolorata moltissimo. Cioè andrei a indagare nella sua vita quali eventi possono aver creato questo stato, se c'è un evento attivante e poi se ci sono delle esperienze relazionali che portano ad una propensione al suo disturbo. Andiamo ad Antonella che ci chiama da Modena e poi cerchiamo di capire a chi chiedere aiuto. Antonella, buongiorno, buongiorno. Benvenuta. Allora, io ho iniziato a avere dei momenti d'ansia alcuni anni fa con la mia separazione non voluta e per la quale ho lottato perché non avvenisse e non ho avuto i risultati sperati, avevo una bimba all'epoca di 9 anni. Quindi un periodo molto buio e molto difficile della sua vita. Tremendo. E da lì mi sono rimboccata le mani, ho avuto tanta energia per anni, poi mi sono risposata con una persona fantastica, da lì io in realtà sono crollata, nel senso che ho voluto cominciare a trovare un lavoro, che alla mia età è molto difficile, e mia figlia che sembrava serena invece in realtà non riesco a darle la serenità che vorrei. E di conseguenza somatizzo ogni tanto avendo paura di andare nei supermercati perché mi sembra di vedere le persone tutte felici, serene, tranquille, o provo appunto delle improvvise tachicardie, delle improvvise sensi di svenimento e non sto bene. Poi ho dei momenti in cui dico no, devo farcela e è sufficiente una giornata col sole che sto meglio. Ma tendenzialmente sono molto triste e abbattuta perché fondamentalmente mi rendo conto capisco che non ho del tutto chiuso con quello che mi è accaduto. Ecco. Lei capisce, Antonella, che deve prendere un po' in mano la sua vita. È crollata dopo un periodo in cui ha messo tutte le sue energie. Capita, ad esempio, dopo un esame, che magari uno lo affronta da leone e poi si in qualche modo si sgretola. Professor Mencacci, professoressa Telfner. È bellissima questa testimonianza, Sì. Ma dice una cosa molto chiara, è che l'ansia non compare nei momenti di lotta, ma compare nei momenti di resa. Questo è il primo messaggio, come moltissimi disturbi panici non compaiono quando c'è l'episodio in sé dove la persona reagisce, ma compaiono dopo. Compaiono ad esempio quando si va in vacanza, quando si dovrebbe stare tranquilla e serena, e questo è un meccanismo biologico fortemente ormai compreso e studiato, così come è compreso e studiato quanto la separazione veramente crea delle alterazioni nel nostro cervello in maniera profonda e significativa, che a distanza comportano i sintomi che diceva questa signora, che sono sintomi di disturbo panico molto, molto chiari, e che quindi è necessario dover intervenire perché non solo sta male, ma la qualità della sua vita peggiora sempre più. Cosa potrebbe fare Antonella? Lo chiedo a lei come psichiatra, lo chiedo alla professoressa Telfner come psicologa. Vi faccio questa domanda perché ormai è chiaro il ruolo dello psichiatra e il ruolo dello psicologo, due figure che spesso collaborano oppure sono sequenziali. Però, professor Mencacci, lei lo sa bene che chi dice psichiatra pensa subito a qualche cosa di grave e ai farmaci e magari va dallo psicologo, ma magari pensa magari però a una malattia che dovrebbe essere affrontata con una terapia farmacologica. Io vorrei dare un po', utilizzando la vostra esperienza, delle indicazioni a chi ci sta ascoltando, iniziando a capire il ruolo di queste due figure che ci aiutano comunque a superare dei momenti difficili. Inizierei dalla professoressa Telfner. Professoressa. Allora, sono molto d'accordo che psichiatra e psicologo devono collaborare. Sì. C'è questa differenza che gli psichiatri vengono da medicina e quindi possono dare i farmaci, mentre noi psicologi non li possiamo dare. Ci sono sia psichiatri che psicologi che fanno psicoterapia. Sì. E sempre più ci sono anche psichiatri e psicologi che intervengono con tecniche un po' più brevi, mi viene in mente una tecnica di cui si sta parlando molto che è l'EMDR, che si chiama sui movimenti oculari, una desensibilizzazione e una ridefinizione dei problemi, e sempre più sia psichiatri psichiatri che psicologi possono aver fatto un training in psicoterapia o in tecniche più attuali. Professor Mencacci, comunque i farmaci da soli non servono, vero? No, diciamo che non sempre sono sufficienti, ma io credo che le persone prima di tutto debbano sapere di che cosa soffrono, quindi ricevere una diagnosi. Poi sta alla capacità, in questo senso, del medico, io dico anche dello specialista, illustrargli le possibilità di cura, che sono possibilità di cura sia in senso farmacologico, ma anche in senso psicoterapico, sia da sole come modalità, sia in maniera combinata o una dopo l'altra. Cioè, le persone però devono sapere di che cosa soffrono e di tutte le possibilità di cura di cui oggi la scienza dispone. E io volevo, e soprattutto vorrei sottolineare, vorrei mandare questo messaggio che mi arriva anche da tanti SMS di persone che questo disagio l'hanno provato e che mi dicono: chiedete aiuto, fatevi aiutare, da soli non si riesce ad uscire da questo tunnel. E quindi è un invito che io rivolgo ai nostri ascoltatori, uomini e donne, 800 24 0024, se vogliono. Naturalmente una trasmissione non basta, è un piccolo aiuto, una goccia che però secondo me può smuovere qualcosa. Andiamo a Milano, nella provincia di Milano, con Paolo. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, pronto? Sì, siamo qua. Paolo, benvenuto, ci racconti. Allora, senta, io ho avuto un piccolo problema, no? Che vabbè, sono rimasto separato tramite mia moglie per il semplice motivo perché io non trovavo lavoro, non trovavo e rimanevo chiuso in casa tutto il giorno e per lo più avevo il vizio del vino, sì. No? Mia moglie giustamente mi chiamava dal lavoro, e perché era molto dolce, molto tenera, non perché era mia moglie, e mi diceva: mi raccomando Paolo, non bere, anche se non lavori, non preoccuparti, non bere. Sì. Però quando arrivava a casa aveva sempre un musone che gli toccava per terra, no? E niente, io non riuscivo a capire il suo comportamento, però nell'arco della giornata, giustamente con i problemi che non riuscivo a risolvere, a trovare un posto di lavoro. Certo, la situazione, Paolo, non era facile. Lei adesso, Paolo, come sta? Ma io adesso sto bene, ho smesso di bere, e mi trovo in tantissime colpe, perché l'ho maltrattata giustamente. Paolo, lei si sta facendo aiutare, ha smesso da solo o si è fatto aiutare da qualcuno? No, ho smesso da solo. Professor Mencacci, io vorrei un'indicazione per Paolo. È una situazione, l'ho sentito anche dalla voce, molto affaticato, una parte del lavoro l'ha fatta. Professor Mencacci, professoressa Telfner, vorrei una parola per il nostro ascoltatore Paolo, che ha attraversato un periodo grande, di grande difficoltà, ha superato un problema, l'alcolismo, ma adesso si ritrova pieno di sensi di colpa e penso anche di disagio. La sua voce almeno tradiva una sensazione di grande di difficoltà. Professor Mencacci, in questi casi? In questi casi uno dei passi più importanti è proprio andare al di là della dipendenza d'alcol frequentissima in caso d'ansia, ma anche in caso di depressione. Direi che per il nostro ascoltatore, magari se riuscisse a chiedere aiuto per aiutarlo a ritrovare una maggiore stima di sé e saper affrontare queste possibilità di andare oltre la colpa, probabilmente riuscirebbe a stare meglio e forse anche a trovare un lavoro. Andiamo a Maddalena, che ci chiama da Milano. Buongiorno Maddalena, benvenuta. Buongiorno, io volevo raccontare velocemente la mia esperienza di ansia. Io ho questa sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico. Fortunatamente gli attacchi di panico adesso sono più limitati perché sto facendo una terapia sia farmacologica che di supporto psicologico. Sì. E ho 46 anni e volevo solo raccontare che come è nata questo mio problema. Io ho sempre avuto caratterialmente un po' un problema di ansia, anche di timidezza, di paura verso gli altri, eccetera. Però è nata nell'ambito lavorativo 4 anni fa, quando le cose cominciavano un po' a girare male, mi sentivo tremare la terra sotto i piedi, anche perché io sono single e ho un figlio che adesso ha 17 anni. Quindi in un'età delicata. Difficile, delicata e comunque con anche problemi pratici tipo pagare un mutuo, fare la spesa, cose così, per cui insomma avendo sempre puntato sul lavoro che mi dava questa sicurezza, questa certezza, venendola a perdere, non avendo altri punti di riferimento né di famiglia di origine né di un marito né di... Maddalena, salta quell'equilibrio che noi abbiamo cercato, no, di darci in qualche modo, di tamponare. C'è qualcosa che improvvisamente fa saltare questo equilibrio e lei è andata in crisi. Sì, sono saltata per aria, poi anche sul lavoro le cose sono peggiorate sempre di più e quindi mi sono ritrovata da ricercatrice che ero, praticamente io lavoravo in ricerca farmaceutica, a fare le fotocopie. Maddalena, però mi sembra, Maddalena, mi scusi, però mi sembra, sentendo anche la sua voce così, che da quello che lei ci ha raccontato, che il problema lei l'ha affrontato, adesso sta meglio. Sto facendo una terapia farmacologica con inibitori selettivi della serotonina e poi vabbè, anche un supporto psicologico, sono in un gruppo di terapia, prima ho fatto terapia individuale, adesso sono in un gruppo e adesso mi batte il cuore fortissimo mentre sto parlando. Maddalena, questo è normale, batte sempre, meno male che batte poi. Professoressa Telfner, un commento a Maddalena, che tanto è una donna di grande coraggio. Esatto, intanto complimenti a Maddalena che ho sentito molto consapevole di tutto quello che le sta succedendo intorno. Il lavoro deve solo proseguire, l'unica cosa che possiamo dirle è deve continuare questo lavoro di centratura su di sé. E approfittiamo appunto per dire anche agli altri ascoltatori questo fatto, che ogni tanto si può tramutare un sintomo d'ansia, anche il più scomodo, in una occasione per fermarsi e guardarsi dentro e ragionare insieme a qualcun altro, ma ragionare su di sé, sulle proprie priorità, sui propri valori, sulla situazione del passato, ma soprattutto anche sui propri progetti futuri. Certo, questa è una lettura che mi piace molto, professoressa Telfner. Anche quando la vita ci mette di fronte a delle situazioni che proprio non ci piacciono, provare a lavorare su di noi, chiedendo naturalmente anche l'aiuto per cercare un po' di rivedere l'assetto della nostra vita. In linea con me ho la dottoressa Francesca Merzagora, presidente di Onda, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, io ho invitato la dottoressa Merzagora perché Onda organizza un convegno molto interessante sulla depressione al femminile proprio a Milano. Ci dia le coordinate perché ho un'idea da proporle. Sì, allora lunedì 9 marzo alle 10.30 presso la Banca Intesa in Piazza Belgioioso. È un convegno che abbiamo organizzato in collaborazione con il progetto Itaca, proprio forti del fatto che purtroppo la depressione è la prima causa di disfunzionalità tra i 14 e i 44 anni e colpisce soprattutto le donne. E Onda, che lavora proprio a cuore la salute delle donne, non poteva non organizzare un convegno proprio rivolto ad uno dei problemi che affliggono le donne di oggi, donne ma anche uomini. Dottoressa Merzagora, a noi sono arrivate tante storie, tanti sms, abbiamo detto che la condivisione, parlarne, uscire da questo tunnel è importante. Mi chiedevo se, le lancio l'idea, di dire ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, di raccontarci le loro storie, anche come sono riuscite a vedere un nuovo modo, no, di affrontare la vita. Le più interessanti magari potreste leggerle al convegno in una sorta di tam tam passaparola, che dice? Sarebbe un'idea bellissima, potremmo poi metterle anche sul nostro sito. Io potrei aggiungere anche questo numero verde di progetto Itaca, che è 800 274 274, che è una cosa, diciamo, sì, ma Itaca, certo, noi ce l'abbiamo sul nostro sito perché Itaca l'abbiamo avuto più volte come nostri ospiti. Perfetto. Quindi Itaca, Onda, Essere Benessere, ringrazio, mandateci le vostre email, ringrazio il professor Mencacci, la professoressa Telfner e la dottoressa Merzagora, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. ciao a tutti, io sono Valeria Milillo, sono Cecilia nel film Due Partite e il mio personaggio è un personaggio non ansioso ma nevrotico, non vive particolari ansie. Io invece Valeria nella vita vivo molte ansie e spesso non riesco a gestirle, però ecco, l'unica cosa, non faccio finta di non averle, il che un po' le placa. Poi se sto veramente troppo agitata cerco di pensare alle cose belle e poi dico che sono agitata e la cosa un po' si smorza, di non far finta di non stare in quello stato, di ammetterlo e così di condividerlo con chi sia vicino un po' aiuta a smorzarlo. Mi sembrava carino mandarvi questo messaggio della Milillo, che è una delle protagoniste del film Due Partite. Intanto ci ragioniamo su, io vi aspetto con le vostre mail a esserebenessere@radio24.it. Bene, ora che l'ansia l'abbiamo esplorata e descritta, cerchiamo di capire quanto incide sulla salute del nostro cuore e come nel caso possiamo difenderci. In linea con noi il dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno, dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Gargiulo, l'ansia, lo stress pesa sul nostro cuore, sulla salute del cuore di noi donne, che è un po' un cuore particolare, con delle differenze rispetto a quello degli uomini. Sì, sicuramente il cuore delle donne è un po' quello che ci ha fatto capire che esiste una medicina di genere, cioè una medicina che deve essere più attenta per le differenze che ci sono fra uomo e donna. Vediamo subito per quello che riguarda le donne. Le donne in età fertile hanno un ombrello di protezione ormonale, lo abbiamo già detto, che consente loro di riuscire a star bene dal punto di vista cardiologico. Nel momento in cui questo ombrello viene meno perché arriva la menopausa, ecco che loro sono più esposte a rischio, ma a volte succede che anche prima della menopausa, stress eccessivi, cattive abitudini di vita come il fumo, la vita sedentaria, un'alimentazione eccessiva troppo ricca di grassi animali, possano provocare una situazione predisponente verso quello che è il nemico più grosso del nostro cuore, cioè l'infarto. Nella donna, fra l'altro, l'infarto si manifesta in maniera un po' più atipica. Ci sono delle forme, lo dicono i cardiologi, che non danno nulla dal punto di vista degli esami, cioè non si riescono a vedere, magari con una coronarografia, ma hanno provocato degli spasmi probabilmente sull'arteria, sulle coronarie, quindi le hanno ristrette al punto tale che il sangue non è arrivato al cuore, non è arrivato al muscolo. E questo può aver provocato un infarto, che fra l'altro si manifesta in modo atipico, non con il classico dolore al centro che si irradia verso il braccio sinistro, quello descritto un po' da tutti i libri, ma con un dolore che ricorda quasi più un bruciore di stomaco che un dolore cardiaco e tante volte passa misconosciuto, completamente inosservato, e questo può provocare anche dei danni importanti nella donna. Dottor Gargiulo, quindi in presenza di un dolore strano che si irradia, una sorta di bruciore, non aspettiamo ma facciamoci visitare, questo è il messaggio che vogliamo dare. Perché in quel caso è sufficiente fare un prelievo di sangue, controllare gli enzimi, che sono un'analisi del sangue particolare che ci fa vedere se c'è stato un danno del muscolo cardiaco. Controllando questi enzimi possiamo sapere subito se la situazione è a rischio o meno. È un esame semplice, in un pronto soccorso si fa velocemente, meglio farlo una volta in più in questo caso che una volta in meno. Dottor Gargiulo, la ringrazio e la saluto e l'aspetto come sempre domani. Buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. E buona giornata anche a voi, come sempre vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.